Allora, sono le 8.09 di giovedì 29 febbraio 2024. Ieri di fatto non è che sia successo moltissimo, però sono usciti due articoli, mi verrebbe da dire, di segno opposto. Il primo di Luca Barra per Link Idee per la TV, che è insomma una storica rivista di riferimento per chiunque lavori nel mondo della televisione, proprio dal punto di vista del mercato, dei modelli economici, anche dei trend comportamentali, dove ha scritto anche uno dei miei maestri, cioè Carlo Alberto Carnevale Maffè. E io ricordo un antico articolo ancora molto valido che parlava delle reazioni scomposte dell'industria televisiva rispetto al furto dell'attenzione, che era l'unica vera cosa temuta all'apparizione di internet e in generale della transizione digitale. Ecco, sono passati ormai, credo, una decina d'anni, forse di più, da quell'articolo, e le analisi di adesso sembrano quasi un po' di segno opposto. È uscito un pezzo di Luca Barra che commenta quella che secondo me è una semplice, come dire, aggiustamento della logica di mercato, non è la caduta di un tabù, e cioè il fatto che Amazon Prime Video ha deciso di inserire la pubblicità nell'offerta Prime base, alzando di $2 il prezzo dell'offerta senza pubblicità. Naturalmente tutto questo, cioè il fatto che piattaforme, anche YouTube naturalmente, in modo molto più invasivo dal punto di vista pubblicitario, nel tempo, no, le piattaforme stiano abbandonando la logica di offrire contenuti privi di pubblicità, no? A cominciare anche da Sky, no? Uno compra, fa un abbonamento anche molto più esoso con Sky sperando di non vedere pubblicità, e vi assicuro che l'esperienza è indistinguibile dal fatto di seguire Mediaset o i programmi Rai, dal punto di vista, diciamo, della libertà dall'interruzione, ecco. Però ecco, questo passaggio a questa fonte di ricavi irrinunciabile che è la pubblicità viene da parte anche di piattaforme che nascono proprio su internet, le cosiddette digital native, viene indicato nell'articolo come una sorta di reinvenzione della ruota. Cioè, infatti il titolo è La reinvenzione della ruota, perché le piattaforme hanno accettato di fare televisione, no? È interessante perché sembra quasi che personaggi, diciamo così, che non sono esattamente dei visionari di internet e soprattutto di electronic democracy come Jeff Bezos, cioè, da aspettarsi da lui una visione aperta della rete mi sembra molto molto difficile. Lui è un monopolista naturale dell'e-commerce, mi verrebbe da dire. Quindi non vedo perché aspettarsi da lui nulla di diverso che un aggiustamento del pricing e naturalmente l'accesso a una fonte di ricavi che non è che uno sdegnosamente può rinunciare in nome di un qualsiasi principio, soprattutto se sei uno dei peggiori capitalisti che calchino l'orbe terracqueo. E lo stesso vale, insomma, per chiunque altro si getti in quello che, dobbiamo riconoscerlo, è un business prima di essere qualcosa che sta su una piattaforma digitale. Ecco, questo è un po' quello che non capisco dell'impostazione dell'articolo, che invece, partendo da questa premessa secondo me sbagliata, poi finisce per dire che il problema è che fondamentalmente alle persone della pubblicità non importa nulla, soprattutto la scelta è considerata un onere. Viene citata la famosa scena di Zero Calcare in cui la persona alla fine non riesce a guardare un film perché passa tutta la sera a fare questa cosa noiosa e antipatica di scegliere. Cioè, sembra sempre che alla fine il messaggio che si vuole mandare è che la scelta sia qualcosa di deprecabile. E io non, così, provo a dire che non è così e a dimostrarlo in qualche modo. C'è un articolo di segno opposto che mi viene invece segnalato dalla sempre preziosa Francesca Ribenedetti, una delle pochissime giornaliste e giornalisti che quando parla di internet sa esattamente di che cosa sta parlando, e che invece racconta le vicende di Internet Archive, che è al centro, come forse qualcuno saprà, il grande archivio online la libreria gratuita, The Wayback Machine, la possibilità di recuperare tutte le pagine web mai realizzate, insomma un enorme progetto su base volontaria. Ecco, pare che dell'Internet Archive non sia in ottime acque. Perché? Perché è stata citata in giudizio da quattro grandi editori durante la pandemia, quando il servizio di controlled digital lending, cioè di affitto controllato dei libri, perché si porta come una biblioteca, ha rotto la regola per un breve periodo che prevedeva naturalmente che un solo libro per volta potesse essere affittato. Per intenderci come funziona una biblioteca, quando qualcuno è in affitto un libro, tutti gli altri non lo possono vedere e non lo possono sfogliare. Ma questo direi che è soltanto una scusa. Internet Archive rappresenta semmai molto più che una minaccia all'industria libraria, proprio una sorta di inno alla scelta. E quello che secondo me si teme è che le persone tornino a imparare a scegliere in luoghi come quello, dove non ti danno una pappa pronta e dove puoi esercitare il tuo diritto all'accesso alla conoscenza, che poi in varie, diciamo così, forme diverse, con varie sfumature, è affermato da tutte le costituzioni democratiche. Poi ci sono paesi leggermente più liberali come gli Stati Uniti, dico leggermente perché le vicende di Aaron Swartz dovrebbero fungere da monito, però insomma negli Stati Uniti esiste per esempio il fair use, che è già molto più aperto rispetto a quello che succede da noi, no? Quando insomma noi non possiamo quasi mai citare un contenuto protetto da diritto d'autore. Negli Stati Uniti ci sono, insomma, c'è una maggiore apertura su questo. Però ecco, quello che mi preme sottolineare è che tutte queste discussioni che sono in punta di diritto sono in realtà scavalcate storicamente da ciò che diventa uno standard de facto, no? Cioè tutta questa discussione, per esempio, io la sto facendo su un podcast che tutti possono ascoltare liberamente. Perché? Perché qualcuno ha inventato internet, ed è anche lo stesso motivo per cui ho potuto leggere questi due articoli da fonti completamente diverse, confrontandomi quindi su scala globale. E questo è stato permesso dal fatto che a un certo punto un signore che si chiama Vinton Cerf, insieme a un altro signore che si chiama Bob Kahn, ha imposto uno standard de facto, cioè il protocollo TCP/IP, che non essendo nato per soddisfare le necessità di un imprenditore, di un editore digitale, ma semplicemente per soddisfare le richieste del Ministero della Difesa americano, che ha bisogno di una rete in grado di resistere anche a un attacco nucleare, che cosa ha fatto? Si è inventato un protocollo che permette anzitutto a tutte le reti di collegarsi con tutte le altre. E se non fosse stato così, avrebbe vinto un altro modello, che nel frattempo poi è diventato uno standard di diritto per le reti globali, lo standard OSI, che invece prevedeva, diciamo così, di entrare di volta in volta in singoli domini controllati, in singole reti, che sarebbe stato esattamente quello che ogni imprenditore digitale oggi vorrebbe fare, e cioè la rete di Berlusconi contro la rete di Bertelsmann, contro la rete di Random House. Insomma, ogni editore avrebbe controllato la propria rete e quindi nessun contenuto sarebbe realmente entrato in concorrenza con tutti gli altri. Che è quello che, guarda caso, in qualche misura stanno cercando di fare le varie Netflix, Prime, e non è una sorpresa, non ci sono sepolcri imbiancati, tabù che cadono, è quello che succede quando vivi in un sistema che si chiama capitalismo. Internet non c'entra molto in tutto questo e sarebbe il caso che aprissimo gli occhi quando ne parliamo.